io amo discutere di storia, di insegnamento, d'accordo? È ovvio che la questione della legge, per conto mio, è semplicemente grottesca perché c'è l'articolo 33 della Costituzione che dice che l'arte e la scienza sono libere e libero è l'insegnamento. Quindi, in sostanza, è un'iniziativa che io credo sia stata fatta più per ottenere visibilità che perché si possa mai pensare di vararla. Persino Giovanardi, dico poco, quando è stata presentata la stessa cosa 10 anni fa, ha detto che era irricevibile. Mi contestano il giudizio ora. Io non posso fare storia senza giudicare. Posso fare un'altra cosa che ho fatto parecchio. Per esempio, c'è una scheda intera in cui si dice come è stato visto il fascismo da diverse parti. Posso fare questo, tutto più. Naturalmente non lo posso fare tutti i momenti perché il manuale, invece che essere di 3.000 pagine, diventerebbe di Certo. 50.000, insomma.